Giulio, sei tu? Sì. E allora, come va? Sì. Ciao Giulio, dopo tanto, si tira avanti. No, stavo andando un po' a dare un'occhiata in strada che mi sembra di aver avvistato all'orizzonte i soliti testimoni di Geova che vengono a scocciare. Probabilmente suoneranno anche qua. E per caso ho sentito colpi di portante qua o giù di lì. Infatti ho detto, chi è? No, ma sono dei colpi, sembrano colpi di portante, ma in realtà sono colpi di, propagazione. Sembrano dei colpi importanti, ma in realtà non è così. Ah, mi pareva strano, ma chi è che si prende la briga? Certe volte dice, la sera ogni tanto senti tu, come degli impulsi, dai. E degli impulsi continui, ma perché è su vari canali. Infatti anche stamattina io stavo parlando con la ruota di Alghero, stavo parlando e l'ho chiesto, e uno mi ha risposto, sì, anch'io registro questi impulsi così che sono dovuti alla propagazione, niente di più. Ho capito. No, sai perché me ne sono accorto anche? Questo squelce quando si apre non è silenzioso, cioè non è che passi dallo squelce o quando arriva un segnale, una portante e si apre in silenzio, guarda il colpetto, senti boom, boom, boom, boom, boom. Ho detto, ma cosa fate qui? Chi è che sta sempre pigiando la portante di continuo? Ta, ta, ta. Invece è roba propagativa. Vabbè, meglio così, da. Vuol dire che lo alzerò di più. Per eliminare il QRM e quant'altro, da. E adesso mi ritiro nei privati appartamenti. Sì, stavo controllando le finestre, vedi questi in strada che stanno a suonare tutti i portoni, adesso suonano qua anche. Oh, non hanno mai pace, non hanno mai pace, è una cosa allucinante. Sono passati l'altro giorno, sono ripassati, oggi si stanno facendo di nuovo tutta la via. Lo so, stanno sempre in giro, sono scoccianti queste persone, ma io quando vengono qua le mando subito via senza fare di altra le lunghe, senza dare nessuna spiegazione, chiudo la porta e basta, e loro rimangono all'esterno così e se ne vanno per forza, non me ne frega niente, dice no, non sono interessato, buh, e chiudo senza stare di altra le lunghe. Sarà un comportamento maleducato, quello che vuoi, ma a me mi danno fastidio, perché sono loro che stanno venendo a disturbare me, non io, sto andando da loro a chiedergli niente. Sì, e poi vengono anche nelle ore pomeridiane, magari quando riposa, dopo pranzo, roba del genere. Vabbè, adesso è ben oltre l'ora di riposo, ma per me che mangio tardi, e certe volte 2:30, anche 3 di pomeriggio iniziamo a pranzare, perché magari quando usciamo poi ci riposiamo un po' e poi pranziamo. E vabbè, contenti loro. Sì, anch'io taglio corretto, no, non ci serve niente. Anche perché poi loro non è che ragionano, loro ti citano sempre i versi della Bibbia, magari senza capire il significato. E quindi non c'è dialogo, capito? Non, vanno sempre lì a parare, a citare i soliti versetti. Per questo dice, vabbè, ciao, poi a me di. Io già sono un poco religioso, anche per il cattolicesimo, figurati se vado a infilarmi in queste sette. Oh, ma nemmeno ci penso io, nemmeno nella maniera più assoluta. Ma venivano anche quando lavoravo, passavano lì. Ma secondo voi devo perdere tempo, dice voi, secondo voi devo perdere tempo con la cristianata che volete raccontare voi? Ma andate via che io devo lavorare, non ho tempo a perdere con le cretinate e le stupidaggini che volete raccontare voi. Le mandavo via subito anche in malo modo tante volte, se mi trovavo in un momento un pochino così alterato o mentalmente, nel senso che magari qualcuno mi aveva fatto nervosire, peggio per loro che ci capitavano proprio in quel momento, guarda, perché le mandavo via in malo modo. E se eri molto nervoso, rischiavano di beccarci qualche legnata pure. No, qualche colpo di sergente, cioè niente, sarebbero quei mossetti di ferro a spaccare le cose, i fianchi così, no, le vertebre. Sì, via. E ho notato, Giulio, una lunga assenza tua, ma tutto a posto per la salute o erano problemi un po' così? Sì, no, tutto a posto, grazie a Dio, tutto a posto. Dall'ultimo controllo, dagli ultimi controlli che ho fatto, tutto è risultato in ordine. Adesso devo andare per farlo vedere all'urologo di controllo, che tutte le volte che facevo delle visite poi andavo per darmi il referto definitivo come era andata la situazione, no? Devo andare il 2 maggio, devo andare, tra l'altro. Anzi, per domani io avrei dovuto avere un'altra visita, ma che io ho già fatto a pagamento con 250 euro, mentre quella che dovrei fare, che avrei dovuto fare domani, che tra l'altro l'ho annullata, quella lì era gratis con la sanità, ma siccome avevo trovato l'appuntamento troppo lontano, allora avevo preferito farla subito a pagamento, 250 euro. Perché dovevo andare poi per farmi dare il referto da chi mi stava seguendo, e dunque il referto non riuscivo a trovare l'appuntamento nemmeno con quella dottoressa, perché lei aveva spostato il tutto. Però sono andato direttamente da lei e ha un ufficio apposito adesso, perché lei sul computer non la trovi più per prendere appuntamenti, ha un ufficio apposito lì in ospedale direttamente. Eia, ha già compreso. E insomma, qua vabbè, lo stesso, sempre controlli con dosaggi, e mi sto anche buriando, perché se devi fare esami impegnativi alla fine me li devo pagare, perché se no non te li rimandano a mesi dopo, oppure ti fanno andare a Cagliari o Oristano, che ti sono matti. Vabbè, bella, stiamo finendo bene con la sanità. Va bene, c'è un respiro un po' affannoso. E Giulio, dai, sentiamo, guarda, di solito entra più gente alle 6:30, 7 di sera. Sì, alle 7 direi che qualcuno entra. E magari trovi più traffico in quell'arco temporale. Dai, io adesso stacco. Casomai se riesco entro più tardi. Guarda, io stamattina così ho acceso e per caso ho trovato Daniele, ho trovato che stava parlando con Alghero. Sono entrato anch'io, sono entrato e stavo parlando con questi Alghero. Di Alghero hanno formato un gruppo e sono già 45 persone già che formano questo gruppo. È praticamente un gruppo CB27, no? Megahertz. Chi si vuole iscrivere basta dargli il numero di telefono e ti iscrivono loro. Io non gli ho dato nessun numero, ma evidentemente ci ha pensato Daniele, gliel'ha dato lui il mio numero e oggi ho ricevuto la cosa su WhatsApp, ho ricevuto che sono stato affiliato in questo gruppo. Poi naturalmente se voglio posso cancellarlo quando voglio, oppure bloccarlo, insomma c'è tutta una sfilza di cose da leggere, che poi voglio capire un po' di più, ma quando ho un momento di tempo lo leggo tutto quanto e vediamo un po' cos'è. Comunque voglio incrementare la CB, quelli di Alghero, sono già in 45, è un gruppo formato da 45 membri. Ma i membri non sono tutti di Alghero, sono anche dintorni. No, perché ho notato una cosa, io sul 10 non ho mai sentito quelli di Alghero. Non ho mai sentito, alla fine quelli di Alghero se ne stanno sul canale di Alghero. Che ne so, quelli Pro Torres Orso se ne stanno sul canale 12. Tutto gruppetti, alla fine la 27 però non si compatta mai. A parte questi gruppi WhatsApp, poi se no ricevi sempre notifiche. Antonello mi aveva mandato un link, però non io no. Se ti iscrivi a gruppi alla fine ricevi sempre notifiche di un utente, dell'altro, no, che chatta all'interno del gruppo. qua si tratta di entrare in radio facilmente anche sullo stesso canale, così si fanno prove, si fanno tutto, non sempre però la ruota che se ne sta su un canale, la ruota che se ne sta su un altro, noi vabbè ce ne siamo sul 10, ma era peraltro anche la più usata di ruota. Ok, no, ormai il 10 è morto, molto è sepolto, è quasi scomparso definitivamente dalla scala della 27, perché non ho sentito più nessuno. Oggi per quello caso sento te, io sono mesi che non sentivo più nessuno ormai. No, questi muovono sul canale 15, tu tenta sul canale 15, che quando loro ci sono muovono sul 15, così mi hanno detto. E mi hanno mandato anche le mail su WhatsApp, che è il loro canale, il canale 15. Per cui se vuoi farci una passeggiatina lì su quel canale, può darsi che riesci a trovare qualche collegamento con loro anche. Vabbè, sì, si può provare, però alla fine è sempre un po', insomma, ogni zona si usa il suo canale, alla fine non siamo compatti un po', bisognerebbe compattare un po' la 27, ecco quello che volevo dire. No, comunque Giulio, per esempio, la sera di Pasquetta che siamo tornati alle 6:30 a casa, poi verso le 7 è entrato i soliti, i più fedeli, il doppio room, Luca del Monte, vabbè, Pomponio, Emanuele, chi altri c'era? Anche ieri c'era gente, Torre Squalo un po' sta entrando, i soliti, i sopravvissuti, Giulia, della tutta i sopravvissuti della 27, perché appunto siamo una razza in via di estinzione. K, riprendi. Sì, in effetti è così, infatti io non stavo più entrando proprio per quel motivo, stamattina così ho detto, beh, esce che accendo, vediamo un po', ma sinceramente stavo accendendo, cioè ho acceso stamattina perché avevo un problemino all'alimentatore, l'ho sistemato, allora ho sentito Daniele e sono entrato a lui, che era tra l'altro sul canale 13, era stamattina, e poi c'era questo Vanni di Alghero, che stava modulando dai pressi dell'ospedale di Alghero, stava modulando quella zona lì, poi c'era questo Angelino, e poi c'era questo Franco Batman, qualcosa del genere. Però io a Angelino e Batman non li sentivo, c'era troppo QRM, c'era QRM molto alto, però sentivo molto ma molto bene questo Vanni di Alghero, e lui mi sentiva bene anche a me, per cui abbiamo fatto queste un po' a giro e siamo rimasti una ventina di minuti, io perlomeno sono rimasto così, poi loro si hanno chiuso, non lo so, però io ho dovuto abbandonare perché avevo cose da fare poi, capito Marco? E mi hanno detto che modulano sul canale 15. Sì, io guarda, quando risentivo magari qualcosa sul 14, qualcosa sul 15, il 15 diciamo qua molto spesso c'è questa portante di propagazione dove c'è un brusio confuso di voci e non si capisce se in AM, FM, non so se hai notato, quando c'è propagazione il 15 c'è sempre questo segnale 8, 9 con questo brusio di voci miste che non si capisce cosa sia. Sì, quello sì è vero, ma io noto molto spesso delle modulazioni sul canale 11, che lì sono sicuramente da fuori perché non si capisce l'accidente di quello che dicono, perché parlano evidentemente anche in lingua straniera, non lo so, però diciamo che quasi tutto l'anno, quasi, senza quasi, raramente c'è il giorno che non li sento sul canale 11, non so chi sono, da dove trasmettono, nemmeno perché, ripeto, non capisco la loro lingua, per cui non so cosa dire, ma quello deve essere solo questione di propagazione. Ad ogni modo io ogni tanto un girettino sui canali un po' più alti vado e già faccio qualche collegamento, ma non sempre, perché non è che ho più quella voglia di una volta di fare collegamenti a lunga distanza, non me ne frega niente, capito? Anche perché se non parlano italiano a me mi infastidiscono perché non capisco niente e loro non capiscono me. Sì, guarda, l'altro giorno mi è capitato che c'erano in propagazione dei turisti, ma dei turisti, dei cibi francesi che parlavano in banda laterale, stavano arrivando anche eccezionalmente bene, quindi io ho un po' aiutato, ho provato a chiamarli, sono riuscito giusto a dire temi i testimoni di Geova, mi te l'ho detto, aspetta un attimo che abbassa il volume. E mandagli al diavolo Marco, mandagli al diavolo subito quella gente lì. Giulio? Sì, sono qua, li hai mandati al diavolo? Me, cosa ti ha giudito? Hanno suonato al piano, ho guardato dallo spioncino ed erano loro, erano quelli che erano fuori, a faccia di tutti i palazzi, mamma mia, no, non ho aperto proprio, no, non ho voglia di stare a dire, non ci serve niente, non ce ne frega niente. Questi lazzaroni, vabbè. Sì, infatti è così. Sentiti, adesso io nel momento che tu eri in pausa ho sentito degli impulsi fenomenali, che arrivavano anche a Santiago 9 e oltre. Ripeto, sono quegli impulsi di propagazione che poi scendono quando cala magari la propagazione e così via. E sembra che ci sia uno che stia mettendo la portante così a ripetizione, tanto per il gusto di giocarsi col PTT. Sì, sì, breve, tipo così, guarda, certe volte è singolo, certe volte è impulsi tipo così. Sì, no, questi sono più lenti, così, guarda, così, a questo ritmo. Sì, magari poi, vabbè, ci sarà qualcuno che pigia. Mi hanno distratto, stavo dicendo, c'erano i turisti francesi in banda laterale, turisti, ma perché turisti? Erano francesi in Francia, perché sentivi il QSB della propagazione, però arrivavano eccezionalmente bene in banda laterale. Io l'unica cosa che sono riuscito a dire è l'île della Sardegna, e questi subito mi hanno copiato perché ero aiutato anche in banda laterale, no? Oh, lì la Sardegna, avanti, insomma, entrare, insomma, quello che è, però alla fine io non capivo una parola di quello che dicevano, a parte entrare, roba del genere, io non sapevo come articolare il discorso, perché sono passati troppi anni dal misero francese scolastico che ho fatto le medie, e quindi non riuscivo a intavolare una discussione, cioè a parte fare il break e dire il della Sardegna, non mi veniva niente, mi ha preso il panico e ho lasciato perdere. Ma poi uno se non la frequenta la lingua, no? Se non parla continuamente, uno se la dimentica anche. Quando si tratta di la lingua di un'altra nazione non è facile tenerla a mente. Io lo so, questo anche ad esempio c'è mia figlia, lo stesso, parla l'inglese, parla il francese, addirittura anche in cinese, si può immaginare che la Sardegna ha studiato anche un po' di russo, per dirtelo, però se non la frequenti continuamente una certa lingua, certe cose te le dimentichi, non è che non puoi, sì, magari ti tiene a mente quelle parole più basilari, ma poi per il resto hai sempre bisogno di un ripasso per ritornarci in maniera decente, diciamo. Ma anche per dire i numeri, che adesso 5 ottavi d'onda, ottavi, come si dice, no, non mi ricordo niente, Giulio, quindi sono trovato in difficoltà, anche perché con i francesi devi parlare in francese, guai a chiedergli di parlare in inglese, dice no, parlo francese, magari ti fanno a dire, capito? Sì, e poi 7 ottavi d'onda dovrebbero essere in realtà 3 quarti d'onda, suppongo che sia così, se ricordo bene sono così, vabbè, questo è un altro discorso comunque. Sì, no, io la verità non ne so nemmeno una di lingua, a malapena parlo l'italiano, cosa vuoi che ti dica? Per cui non ho grande affinità con altre lingue, assolutamente niente. Sì, posso capire un po' quando parla lo spagnolo, ma poi a parlarlo io lo spagnolo, lasciamo perdere. Sì, mentre va bene inglese, bene o male, se fai gli ex almeno... dal segnale si riesce, 5 ottavi d'onda, aspetta, come si dice 5 ottavi in inglese? Ottavi, manco io, ma dico 5 ottavi, aspetta. Ma lasciamo perdere, dai. Beh, poi non è che sia di Exaro molto, di Exer, di Exaro. Non, perché questi tutti avevano il nominativo, sai quei nominativi inventati di questi gruppi di CB, di ex, no? Per sembrare radioamatori, no? Anche si inventano questi nominativi che poi, vabbè, sono molto relativi. Ok, credo che siano andati perché nessuno li ha aperto, finalmente, però caspita, vengono un giorno, si fanno dalla via, vengono il secondo giorno, poi tornano dopo pochi giorni, sono pesanti, capito? Io non vabbè, lasciamo perdere, che mi viene da bestemmiare, ma non è il caso. Cosa ci vuoi fare? Ma sì, ma lasciamo fare, lasciamoli vivere anche a loro, basta non dargli vita più di tanto. No, io guarda, mi ricordo che negli anni passati c'era una mia cognata, che poi adesso tra l'altro è separato anche dal marito, perché si sono rifatti una nuova vita, sia l'uno che l'altro. Era questa qui, questa mia cognata, ex cognata, dai, che frequentava appunto questa religione così assurda, perché per me è una religione assurda. Metti di loro, addirittura portava i soldi che lavorava, il marito li portava a questa con bricola di delinquenti, perché per me erano delinquenti che la sfruttavano e basta. Tu mi dai, ma allora era scema lì, sicuramente lì era stata presa proprio da scema, gli portava dei soldi, dei valori come oro, eccetera eccetera. Quando se ne è accorto il marito, poi alla fine non gli ha dato più lo stipendio in mano, boh, basta, tu soldi non te ne do più. Poi col tempo si sono anche separati, per cui, ma questo per altri motivi, non per il fatto di soldi, perché mio cognato appunto guadagnava anche discretamente, ma lì spendeva a doppia mano, così, no, non a sola mano, a doppia mano spendeva. Perché? Perché i soldi li portava da questa gente qua. Sì, poi per non parlare della schifezza che fanno, che se tu sei, che ne so, un figlio ed esci dalla setta, i tuoi genitori ti devono quasi ripudiare, non ti potrebbero nemmeno salutare. Pensa che schifezze, che idea che hanno anche della... Cioè, o sei con noi o sei contro di noi, capito? Proprio una setta. Allora, io mi ricordo che un'amica di mamma, no, questa amica di mamma adesso non c'è più, ti parlo di tantissimi anni fa, no, quando ero piccolissimo io, no, questa aveva avuto un esaurimento nervoso, no, ai tempi si usava anche l'elettroshock un po' per cercare di smuovere le persone dalla depressione, dagli esaurimenti, quello che è, no? E dopo che lì, insomma, si è rimessa un po' a posto, dov'è che è andata a parare? È entrata nei Testimoni di Geova. Beh, sembrava un'invasata questa, non faceva, quando mamma andava a trovarla, questa non faceva altro che di parlare di Geova, Dio, le faceva due palle così letteralmente, tant'è che mamma si è scocciata ogni volta di questa propaganda di cose, no, non è più andata a trovarla, perché era veramente pesante. Sì, sono pesantissimi questa gente qua, sono gente che dà fastidio, proprio fastidiosi, nel vero senso della parola, perlomeno a me mi dà fastidio, addirittura da odiarli, penso un po', proprio per questo motivo qua, perché sono insistenti, hanno ragione loro, secondo la loro dottrina e il loro modo di pensare. Ma quando mai tu mi vuoi stravolgere la religione, quella tradizionale italiana, vieni tu ad elencarmi quello che è sempre stato la tradizione della religione italiana? Ma per carità, ma vai al diavolo. Infatti ripeto, io quando li vedo questa gente qua li odio anche, guarda. E intanto sembrano persone ben vestite, no? Che tra l'altro quando abitavo nell'altra casa c'era questo che andava in giro a raccontare frottole con la scusa che era di Geova, invece questo tu lo vedevi ben messo, tutto ben vestito, e cos'era? E questo qui era un ladro addirittura. Un giorno ti ho trovato la porta ammaccata, evidentemente con un cacciavite stava cercando di aprire la porta. Se l'avessi incontrato in quel momento l'avrei fatto rosolare dalle scale, tanto erano scale esterne. modo di conoscere tanti anni fa la Chiesa mormone, no? Per conoscenze. I mormoni si propongono, però sono molto, molto più discreti. Non sono assillanti come testimoni di Geova. E poi, avendola vista dall'interno la Chiesa mormone, no? Un matrimonio di questi due che si erano sposati, è divertente perché facevano tutto sul palco, facevano recite, scenette, giochi di tipo caccia alla, aspetta com'era, caccia al tesoro, ma guarda, veramente una cosa divertentissima, sembrano come quelle chiese americane un po' stravaganti, no? Ti diverti anche, a parte pregare. Ma i testimoni di Geova no, non li reggo proprio, non li reggo, sono solo invasati, a me sembrano anche un po' in questo ripetere continue citazioni, versetti, però alla fine di ragionamento un po' logico, eccetera, vedo poco e niente, più niente che poco, capito? E vabbè, comunque a me dalle religioni non interessa, cioè anche se c'è un Dio, non è che sia proprio ateo, ateo, potrebbe esserci un Dio, ma non mi interessa saperne niente, non mi interessa seguirlo, ecco. Ma nemmeno io non frequento la chiesa, non frequento la chiesa, ma con questo non è che vado lì a bestemmiare come fanno certe persone, no, nella maniera più assoluta, non è il caso, non serve a niente intanto. Ma per dire, no, io c'è gente morbosa, adesso vediamo il caso del Papa, è morto questo uomo, poveretto, grazie a un uomo, io sono sempre per la vita dell'uomo, poi che sia religioso o meno, uno non ha importanza. Però quello che volevo dire è questo, l'ipocrisia della gente, soprattutto del mondo intero, tu vedi adesso stanno venendo dall'estero per vedere e onorare le onoranze funebri del Papa. Ma l'ipocrisia, dov'è di questa gente? È fenomenale, è grandissimo, perché il Papa ha sempre detto di pace dappertutto in tutto il mondo. E tu vedi i forti del mondo, i capi del mondo, stanno venendo lì ad appunto onorare la sua morte. Ma non è possibile, ragazzi. Prima non gli hanno dato corda, non l'hanno mai ascoltato, ad esempio vedi la guerra in Ucraina, vede la guerra nel Medio Oriente e tutte queste balle qua, perché lui ha sempre detto la pace, però nessuno l'ha mai ascoltato, però adesso i capi del mondo stanno venendo qua ad onorare la sua morte. Sì, è vero. Ne stavamo parlando in un gruppo WhatsApp, cos'era? Qua è l'unico poi che ho, perché l'ho detto, no, per i messaggi, che essere in gruppi numerosi è una rogna perché ti arrivano 10.000 notifiche. Allora, questo Papa, quando parlava di pace, è stato da tutti, da Sud, Est, America, è stato ignorato, denigrato e in alcuni casi anche offeso. Adesso tutti vengono a baciargli il sedere, come ha detto Trump, no? Che Trump aveva detto che adesso per i negoziati, per i dazi sarebbero andati tutti a baciargli, ha detto proprio culo, ha detto culo Trump. La Meloni è stata la prima a andare a baciargli, come dice lui, adesso vanno a baciargli il sedere, tra virgolette, al Papa, no? Vanno a riverirlo, è un santo, è bravo, però prima l'hanno, te l'ho detto, ignorato, denigrato e offeso, è vero. Sì, appunto, l'ipocrisia della gente è talmente grande che non... Guarda, solo a parlarne dà anche fastidio, perché non è possibile. È un uomo, questo qui era un uomo di pace, poi indipendentemente dal fatto che uno possa essere religioso o meno, non ha nessunissima importanza, perché la pace deve essere di tutti, sia dei laici, sia dei religiosi, sia di chiunque deve essere. E lui l'hanno sempre ignorato. E adesso vengono lì, come sta dicendo tu, proprio a baciargli la bara praticamente. No, non è possibile, va. guarda, non è possibile. Ma non parlare poi di quelli di sinistra, che adesso siccome non sanno più cosa dire, cosa, dove attaccarsi, perché gli specchi ormai non gli bastano più, che non c'è più posto dove si attaccarsi sugli specchi, addirittura vogliono far diventare il Papa col defunto, lo vogliono far diventare di sinistra. Quella Lili Gruber, quella bambola di plastica che fa schifo ai cani, quella giornalista di sinistra, vergognosi tutti quanti, per carità. E così è il mondo, Giulio, il mondo attuale. Una volta era così, ma adesso proprio è guidato dall'ipocrisia il mondo. Tutto, capo di Stato, dal capo di Stato all'ultimo dei derelitti, capito? Tutta facciata, tutta apparenza, poi è così. Che te devo dire? Va bene, comunque adesso vediamo, io stacco un po', Giulio, magari vediamo se verso le 7, se entra qualcuno, 7:30, anche per fare 10 minuti di contatti. Ok, tu qua questo smitter sei 9:05, quindi tutto bene qua, da. Sto usando un altro apparato che non è dei soliti. Questo è un cassetto in più da riempire adesso. Ah, ne hai preso un altro ancora? Sì. E vabbè, questo sì. No, io non compro più niente, non c'è nessuno, cosa a meno che non si ricevi la gente di nuovo che entra in frequenza, ma ho la sensazione che nessuno ritornerà ai tempi migliori di una volta nella maniera più assoluta. Ui. Per non parlare, l'ultima battuta, Marco, poi ti lascio andare, per non parlare poi dei frusci, ecco, perché il Papa li aveva definiti frusciani, li aveva definiti. Loro, se tu gli dici fruscio, ti denunciano perché dice che li stai offendendo. E invece il Papa li ha proprio chiamati così. Dice, da noi si chiamano frusciani in Argentina, se che per dirti, no, anche lui era contro diciamo così, nomia che hanno i quelli che sono diversamente uomini, in poche parole, dai, tutto lì, Marco, vabbè, dai, ti lascio andare se hai da fare, ci sentiamo eventualmente un altro momento. No, comunque comprare no. Questo apparato è stato gentilmente offerto dalla ditta Pomponio & Company. Vabbè, no, ma va bene, ci sento abbastanza bene, chiaro. E io non mi ero accorto che avevo il microfono un po' alto poco fa, infatti adesso l'ho messo come solito, lo tengo su 5, perché prima era molto più alto, ma non so se hai notato la differenza, infatti adesso è più basso come modulazione. Sai cos'è? Un po' io ho abbassato il volume come sono passati quelli a Zaroni, e quindi rispetto all'inizio quando sei entrato l'ho modificato il volume e non saprei dirti. Vediamo se riconosci il bip, Giulio. Caspita, no, io non so nemmeno come si mette, invece a vedere cosa c'è qua. Ah, ecco, gli altri bip. Sì. No, non lo uso mai il bip, no, non me lo ricordo nemmeno, penso un po'. No, non ho mai avuto io la passione del bip, la verità, no. Vediamo un po', aspetta che lo provo un attimino, vediamo se trovo il tasto qua, invece a vedere che leggo. Ah, ecco. Questo dovrebbe essere questo, Marco, dimmi se è così. Sì, è quello, è molto lungo come bip. No, ti chiedevo se tu riconoscevi orecchio questo bip. Sì, quello è quello tradizionale, il migliore in assoluto per conto mio. No, questo io avevo letto anche tutte le istruzioni, che questo è modificabile comunque. Non so come si faccia perché non mi interessa, anzi adesso lo stacco, adesso mollo la portante e poi lo stacco. Sì, perché è molto lungo. No, allora, non è il classico del 3009, è praticamente di un LMS 200, si parla di 40 e più anni fa. Capita, è proprio bello vivo, un bip proprio bello, molto bello. Il tradizionalissimo bip di una volta, insomma, ecco. Che poi a dirla tutta, alcuni modelli di Aigen Quinto avevano il bip come questo, e invece solo un modello particolare di Aigen Quinto aveva il bip, quello alla Modigliani, come lo chiamavo io, che faceva tui, era più lungo, proprio così, tui, questo è più breve, è diverso. Mi era sembrato di sentire un break, qualcuno ha fischiato, avanti che vuole entrare. No, niente. Non lo so, non l'ho sentito io. Va bene, sì, è così. Comunque Marco, se tu sei interessato a sentire quelli di Alghero, faccio una scappatina intanto e vedi se riesci a sentirli. Ma suppongo di sì, tu sei in una buona posizione, anzi arriverai molto meglio di me ad Alghero. Io ad Alghero ci arrivo con difficoltà. Se mi sentono lo stesso, ma c'è difficoltà sia in trasmissione che in ricezione, perché dove abito io la zona non è favorevolissima per Alghero. Io sì, magari spazzolando io qualcuno avevo sentito, diciamo il più forte o i due più forti li avevo copiati. Quello che non capisco è perché se si vuole ripopolare la 27 come hanno affermato non si modula anche su un canale comune. Perché questo stare in disparte sempre in un altro canale? Non me lo spiego. Ma cosa vuoi che ti dica? Io ho sempre pensato che a Sassari andare d'accordo su certe cose è impossibile, ma questo su tutto è. Addirittura quando ero giovane, mi ricordo, nelle palestre c'era una contraddizione eccezionale, ma in tutti i posti. Uno ti diceva una cosa e l'altro te la smontava, quell'altro poi veniva e ne faceva un'altra di idea, e niente da fare, non si riusciva mai ad andare d'accordo. Poi vedi il fatto che dovevamo fare noi, quant'è, una decina d'anni fa più o meno, dovevamo fare l'associazione di Sassari, che ancora so che ci sia, so che c'è sul computer qualcosa del genere, e poi è andata in malora. Perché? Perché qualcuno aveva messo il bastone fra le ruote. Comunque non ce ne frega più di tanto, tanto lo sappiamo che a Sassari non si può, non dura mai niente, guarda. Sì, mi pare che la volesse istituire Antonio Grodde, che poi è diventato anche radioamatore, però vabbè, io non è che fossi interessato più di tanto. Ovviamente però chi la fonda voleva essere il coordinatore, come dire, colui che ha maggior voce in capitolo, e allora lì gli era stato contestato, no, ma le decisioni le dobbiamo prendere tutti, dico, un accordo, non va bene se uno comanda e gli altri eseguono, quindi è finita sul nascere l'associazione, capito Giulio? Io ripeto, non ero molto interessato, però già sentendo i discorsi capivi che non c'era il tanto, ecco. Ma se addirittura avevamo fissato un appuntamento per vederci tutti quanti al quadrato per poterne discutere una domenica, mi sembra, una domenica mattina se ricordo bene, ci siamo riuniti in quattro, mi sembra che eravamo 4 o 5, tutti gli altri, anzi qualcuno passava dritto, anche sembrava che l'avesse fatto anche apposta, è passato dritto, è passato senza farsi vedere, è andato a visitare un altro amico a casa sua, perché poi evidentemente erano d'accordo che non erano contrari a questa formazione di associazione. Ma cosa vuoi che ti dica? Comunque non è andata avanti l'associazione che avevamo in via Luzzatti, non è andata avanti l'associazione che aveva Torre alla Verde lì e allo sventramento di Sassari. Cosa vuoi che ti dica? Non, a Sassari non va avanti niente, non va avanti niente, Marco. Vabbè, comunque quello che dico io, a parte associazioni, a parte forum, gruppi, qua non è il problema di fondare un gruppo WhatsApp, perché alla fine si va a parlare su internet, sui gruppi, bisogna mettere il sedere alla sedia e entrare in 27. Ecco, no, che si divaga un po' così. Poi, ecco, chi vuole entrare bene, se no, io l'ho sempre detto, al 27 credo che sia andato, ormai te l'ho detto, siamo rimasti... I fedelissimi che entrano sul 10 sono, si contano sulla punta di una mano, o poco più, dai, almeno quelli che entrano, non dico ogni sera, ma quasi, e quindi è detto tutto. Sì, no, e poi deve pensare anche, magari, se fossimo tutti quanti d'accordo a continuare in quelli che sono rimaste, quelle persone che si contano su un palmo di mano, ma il fatto che uno oggi, l'altro magari fra 3-4 giorni, l'altro fra una settimana, e dunque non ci troviamo mai insieme, prima tutti quanti bu bu bu bu bu bu, e poi alla fine tutti quanti si allontanano, ma per carità, dai, no, non va bene, non va bene assolutamente. Sì, vabbè, cioè va male, ma vabbè, tanto la 27 diciamo è una cosa anche Giulia anacronistica. Diciamo la vera utilità sarebbe, era nel passato, o si spera che non debba servire in futuro per cose più gravi. No, perché a quanto pare la Lituania, diciamo, una movimentazione truppa che è come che fosse pronta quasi a invadere la Russia. La Lituania è pronta alla guerra, sono armati fino ai denti e sembra che non aspettino altro. La Polonia credo che sia a buon punto, che non può vedere la Russia, anche lì si stanno mobilitando malamente. E se scoppia quello che non deve scoppiare, siamo veramente nella cacca. Allora sì che lì i cellulari tabula rasa, dovremmo andare con le batterie da macchina, con il baracchino attaccato alle batterie da macchina. Allora lì sarebbe utile, perché sarebbe la radio l'unico mezzo per comunicare. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Adesso, in un primo momento addirittura, si era pensato, perlomeno qualcuno aveva tolto la voce che veniva anche per commemorare la morte del Papa, veniva anche Putin, ma Putin non poteva venire, non può uscire dalla Russia, al massimo può andare in Cina, può andare, ma non può venire da nessun'altra parte, perché c'è il coso, c'è il come si dice, lui ha gli avvisi internazionali, lui ha ricercato praticamente da tutto il mondo, arriva fuori dalla Cina e qualche altro paese che è d'accordo con magari l'India forse, non lo so, però lui se si sposta probabilmente viene anche arrestato per crimini di guerra eccetera, per cui poi alla fine invece hanno detto che Putin non viene, e io lo guido che non viene, figurati se quello è pazzo che viene qua per farsi arrestare, ma nemmeno per sogno. Ma io penso anche che nessuno Stato si prenderebbe la briga di arrestarlo, anche se dovesse passare per la Francia, per l'Italia, in un paese europeo, chi è che si prenderebbe la responsabilità di arrestarlo per crimini coso e scatenare così alla fine una vera guerra internazionale? Che sarebbe la fine? Sì, sarebbe pericolosissimo, certo che è così, in effetti è così, è molto pericoloso, però cosa vuoi che ti dica? Ripeto, mentre invece coso Zelensky o cosa si chiama, quello viene, che poi tra l'altro quello là è un delinquente, è un assassino, non lo sappiamo Putin, e pensi che Zelensky sia meno di Putin, quello si è preso 350 miliardi di dollari, no 350 milioni, miliardi di dollari dagli Stati Uniti d'America quando c'era Biden, e a 115-120 dall'Europa si è preso. Io vorrei sapere dove ha messo tutti quei soldi quello lì, siccome se li ha messi in saccoccia se li ha messi. Una volta avevo visto una fotografia, una macchina, se tu devi vedere questa macchina, un incanto, una macchina che costa chissà quanti milioni costerà, e lui capita, esce in giro per il mondo vestito da randaggio, perché in realtà non tiene nemmeno l'etichetta del della signoria, eccetera, che viene, va con lo cosa, con le maglie da combattimento, va in giro per il mondo, una vergogna, per carità. Che sembra un pigiama, poi, come quando era andato da Trump, che ha detto, si è presentato in pigiama, anche i giornalisti gli hanno detto, perché come mai non si era vestito in modo più appropriato. Ma quando mai non ci vuole un po' di dignità da parte di un capo di Stato così, che si deve presentare davanti a tutti gli altri? Caspita, è il più pezzente di quelli che si presentano in televisione solo con la cravatta. È lui, caspita, vestito da randagio, perché per me è sempre vestito da randagio, poi con quella barba brutta che ha anche poco curata, per dirti, va per carità, dai. Vabbè, comunque è stato molto, molto illuso da una parte dell'Europa, che poi qualcuno i fondi li ha chiusi, è stato illuso dagli Stati Uniti, dalla precedente presidente, quello lì, Rinco, lì, che non sapevano ancora vera. È stato usato però anche dall'Occidente per i propri fini, è stato proprio utilizzato. Però Zelensky perché vuole proseguire la guerra? Perché sa che una volta che si chiuderanno i giochi lui è morto, perché tu pensi che uno come Putin, che ha fatto ammazzare giornalisti eccetera e oppositori politici, non gli mandi qualche squadra della morte a cercarlo? È meglio che vada dall'altra parte del pianeta lui e che cambi faccia con qualche operazione chirurgica, capito? E se non lo scovano anche in capo al mondo, eh? Eh beh, sicuramente sì, io lo credo che lo scovano, cazzo, tanto che se lo scovano. No, ma io dico questo, quello là, vabbè, è l'aggressore, è stato lui che ad aggredire la cosa, come si chiama, a Zelensky, dai. Però devi pensare che anche lui non è che sia immune da colpe nella maniera più assoluta, perché lui sta continuando a far ammazzare il suo popolo e a distruggere la sua nazione. Ormai non c'è più niente con la nazione, tutto distrutto, tutto garraggio, come dicono a Sassari, lì c'è una montagna di garraggio ormai diventata quella nazione. Lì ci vogliono solo le ruspe per sbancare tutti i detriti di tutti i palazzi che hanno buttato giù, di tutte le strade che sono state tutte divelte, per carità, per non parlare poi che ammazzano non so quante persone ogni settimana, sta ammazzando tutto il suo popolo, sta facendo ammazzare. Ma lo sai che non ce la puoi fare contro l'America, contro la Russia? O ti arrendi, perché intanto se tu continui a fare guerra, quello te la conquista tutta, già te l'ha conquistato un bel pezzo di Ucraina, ma se continui così non fai altro che fartela conquistare tutta e ammazzare tutto il tuo popolo. Ma secondo te è una mossa intelligente quella che fa lui? Tu conta una cosa, non è solo l'Ucraina che sta perdendo con la Russia, alla fine è tutta la NATO, perché l'enorme quantità di materiale bellico dato da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, più che altro forse sotto forma di finanziamenti a botte di miliardi di dollari, è come che la Russia stesse tenendo testa non all'Ucraina ma a tutta la NATO e in parte anche agli Stati Uniti, perché dietro lo sai che certe cose, i satelliti per identificare gli obiettivi, tutta quella roba lì, non ce l'hanno gli ucraini, ce l'hanno gli Stati Uniti, il lancio effettivo dei missili per i bersagli identificati anche dagli satelliti, alla fine i bottoni li premono consulenti americani o inglesi, capito? Non proprio ucraini. E quindi la Russia è di fatto come se fosse già in guerra con la NATO, perché gli hanno fornito materiale bellico, soldi e zitti zitti anche personale, o gente della CIA o chi cavolo è. Sì, ma è così, in effetti è così. In effetti quella guerra che sta facendo, o perlomeno che l'ha fatta Biden contro contro Putin. Non è che l'ha fatta Zelensky, l'ha fatta, vale poco, conta poco e niente, perché se non avesse avuto l'appoggio dell'America, soprattutto degli Stati Uniti, con tutte le armi e di tutti i dollari che gli ha mandato, a quest'ora sarebbe durata se no una settimana al massimo, avrebbe conquistato tutta la nazione ucraina, sarebbe stata conquistata dalla Russia. Purtroppo è così, ha avuto quello che ha avuto e allora sta mantenendo ancora, però adesso che non ci sono più gli aiuti da parte soprattutto della Russia e dell'Europa, l'Europa non so se ne darà mai o sarà in grado di dargli aiuto, ma non credo, però non è all'Europa di risorse, figurati se le può dare all'Ucraina. Infatti l'Europa adesso si vogliono riarmare, perché pare che, sempre per fonti non giornalistiche, però fonti alternative, perché i giornali sono dei venduti, tutti i giornalisti sono dei venduti, è vergognosa anche la propaganda che hanno fatto dicendo che la Russia non aveva più calzini, i soldati erano senza calze, quasi senza scarpe, che combattevano con le pale, che rubavano i microchip alle lavatrici per far funzionare i missili, tutta propaganda, tutte balle dette da giornalisti italiani, ma presumo anche in tutta Europa. Ma proprio bugiardi, giornalisti venduti, che si praticamente fanno sempre il filo di chi è al potere in quel momento, quindi non sono super partes, ecco quello che volevo dire, i giornalisti non sono super partes, ma sono dei lecca posteriore del governo attualmente in carica, che sia di destra, di sinistra, di centro, verdi, rossi, gialli, quello che c'è, ma va bene, che altro dire? Ho perso il filo, Giulio, là. I giornalisti sono una categoria, secondo me, da annientare, guarda, veramente, no, non è possibile. Che poi, tra l'altro, io ho anche un nipote che è giornalista, ma non scrive di politica, è tutta un'altra funzione che lui fa, che è laureato e giornalista già da 4-5 anni, è proprio giornalista effettivo. Ma per dirti, no, purtroppo è così, ci sono le fazioni, poi sono tutti politicizzati quasi questi giornalisti, ma quando mai il giornalista non deve dare informazione e basta di quello che succede? Invece no, addirittura fanno politica e dunque, facendo politica, tu così non fai altro che confondere le idee della gente, le idee del popolo, perché non è possibile che un giornalista debba fare politica. Il giornalista si deve limitare a scrivere le notizie, ad informare la gente, ma no a commentare politicamente di sinistra o di destra, nella maniera più assoluta. Purtroppo è così, ma è un po', questo fa comodo comunque a tutti quelli del PD, fa comodo a tutti i comunisti, che loro non fanno altro che parlare del fascismo, quando il fascismo non ce n'è più da 80 anni a questa parte. Adesso i veri fascisti sono proprio quelli del PD. Sì, a seconda dei metodi, anche negli anni 70 lo sono stati, a seconda dei metodi utilizzati, altro che, perché erano molto inclini a usare la violenza i comunisti negli anni 70, se beccavano, sai, quelle squadracce di sinistra, beccavano uno di destra notoriamente, lo fraccavano di botte, se non gli sparavano pure, se non lo gambizzavano, capito? Sì, comunque, come hai detto anche tu, i giornalisti dovrebbero essere non schierati in teoria, ma alla fine ogni uomo è politicamente schierato, magistrati compresi, anche loro dovrebbero essere super partes, ma non lo sono. Quindi i giornalisti su alcuni fatti hanno taciuto, hanno proprio omesso di dare certe notizie che erano scomode per l'Europa, per l'Italia. Certe notizie sono state invece inventate di sana pianta o stravolte, cioè la realtà proprio capovolta, stravolte. Io non so nemmeno più chi compri i giornali, francamente. E allora sai cosa bisogna fare? Bisogna andare su internet e seguire, che ne so, uno di estrema destra, uno di estrema sinistra, uno del mezzo, e poi trarre le proprie conclusioni. Bisogna ascoltare tutti, un filo russo, un filo americano, un filo europeo, quello che è, poi però ti fai un'idea tua, in base a tutto quello che senti. Però i giornali, mi dispiace, ma non è una cosa proprio vergognosa. Naturalmente, se un giornalista comincia a dire la verità, gli tagliano le gambe perché lo licenziano. Non è visto come ai tempi del Covid, un medico non poteva nemmeno lontanamente pensare di dire che il vaccino poteva avere effetti avversi, perché lo licenziavano, gli troncavano le gambe, renditi conto. Dimmi se non sono metodi fascisti questi. Appunto, questi sono i metodi comunisti, che poi per me sono proprio i veri fascisti, sono loro, perché si sono dimenticati loro che quando, addirittura quando si sposavano, non andavano nemmeno in chiesa a sposarsi, così. Io parlo di tanti anni fa, mi ricordo quando ero giovane, quando ero ragazzo, che uno si sposava, mi devo sposare, in chiesa, in chiesa io, per carità, io sono comunista, io non ci vado in chiesa a sposarmi, mi sposo solamente in comune. Questo era il modo di pensare di allora, perché? Perché creavano una confusione tale e talmente pericolosa nella mente della gente che non era possibile. E ancora oggi esiste questo sistema, ancora oggi tra i comunisti esiste questo sistema, guarda, veramente. Io non capisco per quale motivo debbano essere così. Tutti oggi sono tutti politicizzati, tutti. L'ideale politico oggi è sempre quello di sinistra a fare del male. Hai visto? Il governo fa le leggi e quelli le smontano. Il governo vuole fare il decreto di sicurezza e quelli subito le smontano. No, non è possibile, non si possono fare queste cose qua. Adesso c'è questo delinquente che l'hanno portato in Albania, che ha un sacco di denunce, che addirittura è sul punto di essere espulso. Subito sono intervenuti, no, deve rientrare in Italia perché deve essere denunciato in Italia. Ma per quale motivo lo deve denunciare? Spendere soldi italiani? Ma mandalo via nel suo paese e basta, non se ne parla più. È una vergogna, guarda, no, non è possibile. L'uomo, vabbè, purtroppo così è. Anche in famiglia ci si scanna per futili motivi, tra amici, tra condomini, partiti politici, nazioni, e così sarà probabilmente per sempre. Giulio, ho visto l'ora, io stacco, bisogna staccare perché devo fare delle cose in casa. Ah, peraltro siamo anche senza acqua qua, è mancata addirittura l'ora di pranzo, già non ce n'era più di acqua, una rottura di scatole sta diventando, poi noi non abbiamo serbatoio qua. Anche quello poi, per carità, ogni tanto crea disagio alla gente. No, noi quando noi controlliamo sempre la fornitura del via Balua, e quando manca l'acqua facciamo prevenzione prima, facciamo un po' di rifornimento, almeno se non altro per il bagno serve l'acqua, no? Poi per il resto poco ci interessa, perché intanto a cucinare cuciniamo con l'acqua minerale, a bere beviamo con l'acqua minerale, si tratta solo di lavarti e per il bagno, perché chiaramente quando vai in bagno hai necessità dell'acqua. E vabbè, facciamo il rifornimento, per cui non ci troviamo mai a disagio, Marco. Però vabbè, mi trovo sempre un pochino male quando manca l'acqua. Infatti riempiamo così una tamburlana per il gabinetto, eccetera. Poi vabbè, ci abbiamo anche dei bottiglioni, bidoncini d'acqua così da rubinetto, tanto per anche altre cose, però mi scoccia. Vabbè Giulio, io stacco, ci sentiamo quando capita, insomma, vediamo se rientrerai più tardi. Buon proseguimento di serata, buon tutto e alla prossima. Ok, ciao Marco, alla prossima. Salutoni anche a te, dai, ci sentiamo. Grazie per la chiacchierata, avremo modo di risentirci ancora. Sperando bene che la frequenza possa risvegliarsi completamente, ma non credo. Comunque io ci sono già in frequenza 53 anni, dal 1972, sì che 53 anni e oltre, 53 anni e mezzo, per cui ancora non mi è passata la passione, però di tanto in tanto già accendo e vedo un po', ma ormai avevo preso l'abitudine che non c'era più nessuno e non stavo più facendo nemmeno accensione, niente. Va bene, ciao Marco, salutoni, buon lavoro in casa, dai, ci sentiamo, ciao, salutami di U. D'accordo, ciao Giulio, ci sentiamo, buona serata. Ok, ciao, ciao. Attenzione sul canale 10, la città di Sassari, nord Sardegna, fa chiamata, si sintonizza l'ascolto, prego. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza l'ascolto, prego. Cicu, cicu, cicu, canale 10, ascoltate l'isola sarda.